piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Le frecce tricolori su Milano, il simbolo di un'Italia che unisce le forze e lavora in sinergia. Persino l'omaggio dell'aeronautica, però, è diventato divisivo. È successo a Torino, dove si è creata una ressa da concerto per vedere lo show aereo, anche davanti ai simboli, insomma. C'è un'Italia unita e un paese diviso. Sotto il tricolore disegnato dalle frecce c'è un assembramento di polemiche, a partire dalle regioni, che rischiano di andare in ordine sparso sulla libera circolazione, prevista in teoria a partire dal 3 giugno. Un altro fronte di scontro riguarda gli assistenti civici, volontari che dovrebbero controllare l'applicazione delle misure anti-Covid. Nel delineare l'accordo siglato domenica fra il ministro Boccia e il presidente Anci De Caro, non è stato coinvolto il Ministero dell'Interno e l'irritazione di Luciana Lamorgese ha costretto l'esecutivo a un vertice d'emergenza. Alla fine, il ruolo degli assistenti ne esce fortemente depotenziato, non avranno incarichi di polizia. La movida e gli assembramenti del weekend evidentemente hanno creato molta preoccupazione, ma poca unità di intenti. Ma come? Tutti quelli che ci hanno sperato, che per 2 giorni già hanno preparato tutta la divisa da pescatore grigio-verde, hanno preparato lo spray al peperoncino, hanno misurato la pettorina fosforescente davanti allo specchio sperando di poter partecipare al concorso della Protezione Civile per 60.000 assistenti civici volontari. Già pieni di speranze, di attese, trepidazione, avrebbero potuto andare nottetempo di fronte ai locali dove si faceva la movida, scattare fotografie dei dissidenti, dei sovversivi, di quelli senza mascherina, di quelli a contatto ravvicinato, e magari andare lì con la loro pettorina con scritto sopra Protezione Civile e dire: ma magari Protezione Civile non ce lo scrivono, ma c'era scritto sopra, non so, assistente civico volontario, cioè giovanotto, si allontani, e con il metro misurare la regolamentare distanza per la promiscuità permessa. Quelli che speravano di andare l'estate a godersi il reddito di cittadinanza in riva alla spiaggia, a misurare le distanze fra gli ombrelloni, quelli che già hanno preparato gli spray al peperoncino, magari quelli a forma di pistola che venivano allegati a un giornale qualche tempo fa, e con quel gonfio dentro i pantaloni andare di fronte a un locale e dire: guardi che io sono un assistente civico volontario, lei non può stare qui così vicino a quell'altra persona, si allontana immediatamente. Beh, tutto questo non ci sarà più. Ieri abbiamo visto piuttosto contrito il ministro agli affari regionali Francesco Boccia, stretto in un fuoco incrociato tra Paolo Mieli e Concita De Gregorio, da Floris, dire: ma no, l'avete interpretato male, è stata una lettura giornalistica. Chi ha parlato di sorveglianza delle regole del Covid-19? No, si occuperanno di vecchietti, di persone bisognose, aiuteranno i sindaci nei lavori quotidiani di assistenza alle categorie fragili, qualcosa del genere. E quindi probabilmente non ci saranno più gli assistenti civici volontari, non ci saranno più ufficialmente, però a noi è arrivata una voce. Le frotte di Umarell che erano pronti a passare dal cantiere alla sprizzeria in questo momento si sono organizzati. Le frotte di studenti neolaureati che erano pronti a mettere a frutto tutte le loro competenze acquisite per andare dai loro coetanei che nottetempo stravaccati davanti ai navigli stavano lì e si baciavano magari o stavano in promiscuità, si stanno organizzando. Tutti quelli che pensavano che questa era una buona occasione, magari sai da cosa nasce cosa, intanto ci pigliano come volontari gratuiti, poi magari qualcosina ci daranno, poi chissà, magari ci scappa anche un lavoretto, si sono organizzati. E quindi oggi in 30 secondi a loro daremo voce. 800240024, tutti quelli che l'avrebbero fatto volentieri oggi devono dimostrare la loro capacità di osservare e riferire. In Italia, dopo i numerosi episodi di palese violazione delle regole di contenimento del contagio, per un giorno si è pensato alla soluzione degli assistenti civici volontari, un'idea che ha illuso molti cittadini sulla possibilità di potersi rendere utili alla causa della sicurezza nazionale. Ma il problema dei comportamenti indisciplinati resta e sembra che, in attesa delle decisioni della politica, si stiano già spontaneamente creando nella popolazione le cosiddette USAC, le Unità Speciali Anticontagio, gruppi di cittadini cittadini decisi a far rispettare le due regole fondamentali del distanziamento sociale e dell'uso corretto della mascherina, per non finire nuovamente tutti chiusi in casa. Oggi vogliamo sapere se vi giudicate all'altezza del compito e se siete pronti ad unirvi a questi gruppi di volenterosi cittadini per dare il vostro contributo alla causa. Chiamate ora in diretta all'800 24 00 24 e segnalateci chi mette a repentaglio la nostra salute. Raccontateci in 30 secondi e in modo dettagliato di quale episodio di disprezzo delle norme anticontagio siete stati testimoni. Mi ero soltanto un secondo distratto nel gestire le molteplici telecamere che dal mio studio in questo momento vi stanno facendo vedere cose inenarrabili che solo pochi potranno vedere. Non sono solo, questa mattina davanti al microfono c'è un amico venuto a farmi compagnia, un amico sarebbe disponibilissimo a essere il primo a appartenere a questo nuovo gruppo di persone. Io quindi aspetto che in 30 secondi voi mi descriviate quella che è la vostra attitudine, la vostra maniera comunque di contribuire al benessere generale, alla salute del paese. Immaginate quanto sarebbe stato bello avere liceità permesso, senza che nessuno ci potesse accusare di essere pedanti, di essere impiccioni, di farci i fatti degli altri, di poter dire alle persone: guardi, si tiri su la mascherina. Ieri il ministro Boccia, alle domande che venivano fatte in maniera pressante dai giornalisti, cioè, ma scusi, ma in che maniera possono intervenire questi assistenti civici? Sono armati? No. Sono dei pubblici ufficiali? No. Hanno degli strumenti di deterrenza per convincere gli altri a cambiare il loro atteggiamento? No. E quindi con gentilezza. Più o meno il comportamento dovrebbe essere così. L'Umarell si avvicina con la sua pettorina fosforescente blu, perché dovrebbe essere blu per distinguerla dai gilet gialli, che sono elemento di sovversione, si sa, agli indisciplinati davanti al pub. Con gentilezza avrebbe dovuto loro dire: scusate, bravi giovani, volete per favore alzarvi con la mascherina? Perché un vostro starnuto potrebbe nuocere fortemente alla mia salute. E quelli naturalmente se la tirano subito su e dicono: scusi signore, è stata colpa nostra il nostro comportamento in urbano, subito provvederemo. E questo potrebbe accadere anche, non so, davanti ai locali di musica metal. Immaginate lì tutti con le motociclette, i teschi, le catene, i cannoni, le bottiglie, tutti tatuati. Arriva lo studentello neolaureato con i suoi begli occhialetti spessi, forte di tutte le sue conoscenze in ermeneutica, in cosmologia applicata, non so bene in cosa può essere laureato, dice: scusate signori, vi dispiace evitare di tenervi aggrovigliata sulle ginocchia quella ragazza in contatto promiscuo e salivale con la sua bocca? Le norme di sicurezza dicono che dovete stare distanziati da un metro. Naturalmente è stato specificato che gli assistenti civici volontari saranno dotati di assicurazione, perché altrimenti le contusioni, le costole rotte, il setto nasale infranto che sarebbe conseguito da questo civico comportamento sarebbe stato a carico dell'assistente civico volontario. Quindi 800 24 00 24, aspetto trepidante che voi mi diciate quello che avete visto che non vi è andato bene, che non vi sta bene. Immaginate di passeggiare per Corso Vannucci di persona, al luogo di stravacco che ben conosco per averlo frequentato nei primi 30 anni della mia vita, senza fare altro e fare vasche avanti e indietro, che ieri era colmo di persone, un intero centro cittadino, gente lì per vedere le frecce tricolori, che è un bello spettacolo, molto emozionante, ma sono tre aeroplanini che volano e lasciano la scia tricolore, li vediamo da almeno 20 anni. Vale la pena rischiare per questo? Sicuramente sì, vale la pena. Se fosse stato l'assistente civico volontario sarebbe intervenuto. Quindi aspetto le vostre chiamate all'800 24 00 24. Se servisse vi rimando l'appello, risentite l'appello che ho lanciato a voi ascoltatori, perché mi diciate con esattezza quello che vedete che non va bene, quindi anche voi potreste essere pronti a fare gli assistenti civici volontari clandestini. Oggi vogliamo sapere se vi giudicate all'altezza del compito e se siete pronti ad unirvi a questi gruppi di volenterosi cittadini per dare il vostro contributo alla causa. Chiamate ora in diretta all'800 24 00 24 e segnalateci chi mette a repentaglio la nostra salute. Raccontateci in 30 secondi e in modo dettagliato di quale episodio di disprezzo delle norme anticontagio siete stati testimoni. Intanto ringrazio da Milano Roberta Frisani in regia, Anita Panizza in assistenza, da Roma c'è Fabrizio Intonti, immagino anche Alessandro Chiappini. Devo dire che cominciano lentamente a farsi vivi, ma rendo conto la difficoltà, perché è qualcosa che è ai limiti della legalità. Le persone che stanno osservando, voi dite esattamente cosa avete visto con i vostri occhi e raccontatelo ora in 30 secondi. Non è detto che quelli che si stanno organizzando per fare gli assistenti, i civici volontari, comunque non prendano conto, non tengano conto della vostra aspirazione. Emanuele da Palermo, sei pronto? Sì, pronto. Allora, c'è 30 secondi, racconta bene perché mi rendo conto della tua delusione, ma avrai occasione anche te probabilmente di entrare in questo gruppo segreto di assistenti civici volontari. Sei pronto? Sì. Vai, allora, vai. Entro poco fa in farmacia, la farmacista con i guanti, uso promiscuo denaro e farmaci. Entro al supermercato, la cassiera con la mascherina sotto il naso, si tocca il naso, poi tocca alimenti confezionate e via dicendo, e in più la gente, i clienti che non mantengono un metro di distanza, tutto qui, e abbiamo un esercito a casa che è a riposo, non lo vediamo mai su strada per fare rispettare le regole. Allora, entriamo nei particolari perché hai detto molte cose molto interessanti. Sì. Tu hai visto almeno tre situazioni di disordine. Una è nelle farmacie, che usano, esatto, soldi, toccano soldi senza guanti. No, con i guanti. Con non i va guanti. Bene, è peggio. Perché ogni tanto magari si possono passare il disinfettante, non lo fanno. E non l'hanno poi fatto, benissimo. Poi c'è il al supermercato, mascherina sotto il naso, magari gli viene il prurito e si tocca il naso, come ho potuto testimoniare io, e poi tocca gli alimenti, non va bene, potenzialmente può essere un rischio. E la terza situazione che ho osservato, la terza situazione? La terza osservazione è che la gente non mantiene almeno un metro di distanza. Ma tu saresti disponibile, se tu fossi contattato, ad entrare nelle USAC, unità speciali anticontagio? Ma guarda, io so che c'è metà di esercito a casa per evitare, vabbè, il contagio. Vabbè, quello lascia perdere, l'esercito sì, a casa, sì, noi contiamo sì, sul volontariato, quindi tu saresti un possibile candidato ad entrare nell'USAC. Sì. Allora, sì, signore, sì, che state organizzando in Italia con le USAC, unità speciali anticontagio, abbiamo il signor Emanuele da Palermo, che all'occhio fino ha visto delle situazioni del tutto fuori da l'osservazione, il racconto quotidiano delle scorrettezze, quindi potrebbe essere un buon candidato. Marcello da Roma, sei pronto? Marcello, pronto? Sei pronto? In 30 secondi di quello che hai visto, e forse anche pronto? Tu entrerai nell'USAC. Sono, dai, Marcello, forza. Io Briga, sono parte. Molto attivo, vado in giro, vado di qua, di là, ma ho notato soltanto che le persone italiane sono molto educate, maleducate, e alle quali non piace rispettare le disposizioni per il anzi, mi sento dire, dico, signore, la mascherina, fateli qua, a Roma dicono. Signori, guardi, si mantenga un po' a distanza, per il ma che so cavoline, ecco la grande educazione del popolo italiano. Il suo discorso poi era molto surreale, però lo so come fa lei. Bene, buongiorno. No, no, non è surreale, può sembrare peregrino, ma in realtà, Marcello, l'USAC si sta muovendo, le unità speciali anticontagio si stanno organizzando, si stanno cucendo da soli le pettorine con scritto USAC sopra, e lei che viene sfanculato in maniera così violenta dalle persone per strada avrà almeno una pettorina con la sigla e potrà anche lei fare il suo resoconto quotidiano. Filippo da Milano, velocemente. Filippo, è pronto? Buongiorno. Ecco, vada subito, 30 secondi, ecco. Vai. sostanzialmente dico che si sta facendo troppa polemica su quest'uso di questo potenziale uso delle persone che vanno in giro a controllare, ecco, questa cosa. E mi sembra che invece potrebbe essere una cosa notevole anche di interesse, dove la popolazione potrebbe solamente con la visione di queste persone adeguarsi a quelle che sono le normative. Quindi giudicare queste persone solo polemica non va bene. Solo va bene, sentito il telefono che ha squillato, stanno già chiamandola, sono quelli dell'USAC che hanno sentito la sua voglia di partecipazione. Io non posso farlo perché sono sopra i 60 anni. Ma tu no, ma è fatto proprio per gli anziani. No, aspetta, fermo un attimo, Filippo, lo dico subito. Sono unità speciali anticontagio che sono fatte proprio per persone anziane, gli unici che hanno in questo caso la vocazione di osservare gratuitamente, riferire, sono proprio gli anziani. Lei pensa che i giovani sono disposti a fare una cosa del genere? Ma quando mai? Solo anziani. Sì, potrebbero anche essere loro disponibili a fare una cosa del genere. Ma figuriamoci, questo è un lavoro proprio da pensionati. Quindi lei avrà una sua pettorina, unità speciale anticontagio, potrà andarne fiero, potrà andare in giro e dire ai ragazzi: mettiti con la mascherina, e nessuno più le dirà: ma vedi di andare a fare in culo. Vedrà che sarà così. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Dopo gli assembramenti visti nel weekend, il sindaco Giuseppe Sala ha vietato ai locali la vendita di alcolici da sport dalle 19 e il consumo nei luoghi pubblici come parchi, piazze e strade. Per chi non la rispetta, multe da 400 euro. Dopo 3 mesi una persona ha voglia di uscire, però magari con le adeguate precauzioni. Giuste, però comunque era anche giusto che dovessimo tornare a vivere. Mi dispiace comunque per i gestori dei locali, ma comunque per me è una cosa giusta. Mascherina, le distanze, però non essere blindati come se fossimo ancora, diciamo, in quarantena. Oggi vogliamo sapere se vi giudicate all'altezza del compito e se siete pronti ad unirvi a questi gruppi di volenterosi cittadini per dare il vostro contributo alla causa. Chiamate ora in diretta all'800 24 00 24 e segnalateci chi mette a repentaglio la nostra salute. Raccontateci in 30 secondi e in modo dettagliato di quale episodio di disprezzo delle norme anticontagio siete stati testimoni. Questa mattina stiamo parlando di un gruppo che spontaneamente si sta trasversalmente formando nella cittadinanza indignata italiana. Sono le USAC, Unità Speciali Anticontagio. Sono quelli che non accettano il fatto che non ci sia questa mansione per gli assistenti civici volontari, 60.000 che erano stati banditi, perlomeno promessi dal ministro degli affari regionali Francesco Boccia, e poi con una, devo dire, deludente retromarcia, assegnati soltanto a compiti banali come occuparsi, mettersi al servizio dei sindaci, preoccuparsi dei poveri, degli anziani, dei bisognosi, cose che può far chiunque. In realtà l'USAC voleva precisamente andare in giro, osservare, riferire e reprimere i comportamenti anti-Covid-19, cioè contrari alle norme di sicurezza per il Covid-19. Stanno arrivando centinaia di telefonate di persone che già hanno aderito o stanno per aderire alla formazione, penso clandestina, ma vedrete che avrà poi una sua riconoscibilità, delle USA, Unità Speciali Anticontagio. Si stanno organizzando, si stanno creando le loro divise, che sono dei giubbotti, hanno scelto il grigio verde piuttosto che il blu che era stato indicato nell'indicazione, l'indiscrezione venuta dal ministero, perché giubbotti di grigio verde già ce li hanno per andare a pesca e quindi usano quelli. Ci stanno cucendo la sigla USAC e cominceranno a girare le notti. Mi è stato posto come problema da alcuni ascoltatori: ma è aperto anche alle donne? Certo che è aperto anche alle donne, e abbiamo delle aspiranti USAC. Maria Teresa da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. È pronta a raccontare quello che lei vede, che gli altri ancora non sanno? In 30 secondi, vada. No, io non sono un aspirante USA, che io voglio solo segnalare che a suo tempo, in pieno lockdown, Io lavoro in un'attività di viticoltura, qui le nostre colline sono ormai tutte a vite, coltivate a vite. Le cooperative buttavano, mi dispiace usare questo termine, i loro dipendenti senza protezione, senza informazione, senza mascherine, senza DPI, senza niente, li facevano lavorare e io passando li vedevo veramente ammassati a contatto l'uno con l'altro, che si scambiavano la bottiglia in pieno lockdown, e sto parlando dalla provincia di Brescia. No, no, questo è molto grave. Potete lei magari capire, probabilmente, potete sì, sì, capire l'importanza. No, io tra l'altro ho adesso non avvisato, sto scherzando. No, questo è un problema grosso. Certo. Sì. Io ho segnalato il tutto al sindaco, ai vigili, più e più volte. E cosa è successo? Per cui io questo non lo posso sapere, perché poi non mi è stato mai riferito. Se comunque, Maria Teresa, lei adesso avrà altri impegni, poi si avvicina la stagione della vendemmia, è logico che dovrà pensare ad altre cose. Però lei ha dato un grosso servizio alla causa USAC in questo momento. Lei pensi che nella sua zona potranno andare a verificare se è vera qual è l'entità di questa sua segnalazione, cioè delle persone che lavorano nelle campagne senza mascherina? Marina da Genova, è pronta? Sì, sono pronta. Allora, 18 maggio di pochi giorni fa, grande party nel giardino dei miei vicini. Torte di compleanno, camerieri, circa 25 persone. Le festeggiate sono due, tutte e due soffiano sulla torta e la torta poi viene distribuita. Io poco cristianamente mi sono augurata che si ammalassero tutti. Tutto qua, farei parte volentieri di questa nuova vigilanza. Beh, è veramente scandaloso quello che lei ha descritto. Le due festeggiate soffiano entrambe sulla torta, sputazzano, esatto, sulla panna montata, e sì, la torta viene distribuita come una sorta di malefico party del contagio fra tutti gli invitati. Sì. Però i camerieri avevano le mascherine. però la padrona di casa no. Capito? Quindi non credo casa, sia fatta, no, era una delle che sia fatta tamponare prima di soffiare, cioè adesso mi faccio tamponare, poi soffio, così state tranquilli. Non c'erano i tempi, quindi lei sarebbe disponibile a iscriversi? Disponibilissima, diciamo. Sì, pronta. Cominci a sentire anche le sue amiche, perché secondo me la componente femminile nelle USA che è importante, che siano rispettate le quote rosa è molto importante, anche perché le donne sono molto più attente. Un uomo non avrebbe mai visto con tanta minuzia di particolari il soffiaggio sputazzante contaminante sulla panna montata, che apparentemente è simbolo di felicità, di gioia, di opulenza, in questo caso diventa foriera di morte. Matteo da Milano, è pronto? Sì, sono pronto. Vai, eccomi. Matteo, veloce. Quello che dico io è non tanto sarà guardare la mascherina se è alzata o abbassata o la metratura di distanza fra due individui. Noi ci stiamo trovando adesso un nuovo tipo di rifiuto plastico. Ci troviamo nelle strade, nelle piazze, nei parchi, guanti potenzialmente infetti abbandonati, mascherine potenzialmente infette abbandonate a se stesse, ovunque, nuovi rifiuti infetti che gironzolano per le nostre strade, parchi, quant'altro. Questo è il problema, non tanto la distanza di sicurezza, potrebbe anche essere anche quello un problema, però i rifiuti potenzialmente infetti abbandonati così. Ma guarda, lei mi ha tolto le parole di bocca, stavo per dire che fra i compiti, diciamo, non secondari in ordine di importanza, ma complementari delle USA, che è anche quello di multare, segnalare chi butta mascherine e guanti. L'Italia è piena ormai di mascherine e guanti. Sì, ma noi cerchiamo sempre, noi segnaliamo il problema, poi aspettiamo che qualcuno sia incaricato a risolvere il problema. Sa cosa ma per questo le USAC si stanno creando spontaneamente, perché le USAC avranno anche possibilità di fotografare con il loro Nokia la mascherina buttata per terra mentre uno la butta, il guanto abbandonato, e segnalare alle autorità i trasgressori. È uno dei compiti delle USAC. Gianni da Lecce, pronto? Buongiorno dottor Nicoletti. Vada, 30 secondi con la sua denuncia. Sì, non vorrei stare al posto di quelle persone intanto, perché mi è capitato al Conad che due per due, marito e moglie, e tengo presente che non si potevano spostare da un paese all'altro, quindi erano già fuori legge. Mi attaccarono specialmente la moglie in un modo talmente violento che io ho dovuto chiamare la sicurezza perché andavano senza maschera e io mi chiamavano addirittura ipocrita a me, che loro non ce l'avevano niente. E la moglie era una figurati che dissero vi aspettiamo fuori, ti figuri? E io avevo paura perché io ho 66 anni, non sono riuscito mai ad avere una lite con qualcuno. Questi addirittura mi volevano aspettare fuori. Beh, in lei già batte lo spirito guerriero che entro le rugge di un usacchino. Vengono chiamati usacchini o usacchine in termini gergali. Quindi lei è pronto a fare l'usacchino, che è il cecchino che coglie al volo e segnala e fotografa le persone. Lei pensi, se oggi fosse stato un USAC, lei, quella donna che lo insultava nel supermercato, l'avrebbe tranquillamente segnalata a chi di dovere. Emanuele da Roma, è pronto? Sì, sono pronto. Vada. Allora, io la scorsa settimana sono dovuto andare in ferramenta per acquistare una zanzariera, diciamo, a metà rotta. E sono andato in una di queste grandi ferramenta, senza fare il nome, e non c'era nessun tipo di controllo all'ingresso. All'interno ci sono state 700-800 persone con file alla cassa di circa 45 minuti con un'ora, senza distanziamenti, senza niente. Io personalmente ho deciso di andarmi da un'altra parte, ma era una situazione proprio indiribile in questo momento. Quindi lei in qualche maniera potrebbe accarezzare l'idea di entrare nelle USAC? Ma guardi, non è nelle mie corde, diciamo, andare poi a punzecchiare le persone, no, che si comportano male, però sicuramente... Lei potrebbe limitarsi, diciamo, a lavorare dell'intelligence dell'unità speciale, sì, anticontagio, esatto. Sono quelli che non amano avere un contatto fisico o, diciamo, positivo con i trasgressori, ma si limita a fotografare e delazionare. Almeno il delatore potrebbe farlo, almeno questo, mandare delle foto. Io so che stanno mettendo a punto un'app che non è Immuni, è un'app reale, che farà in modo che tutte le persone potranno fare delle foto e postarle in questa app, e l'app geolocalizza il trasgressore in maniera immediata, comunque a modo di creare una grande banca dati delle persone che gettano le mascherine, che non se le mettono, che non tengono le distanze. Ci fermiamo ancora un istante, molto interessante questo argomento. Melog. Oggi vogliamo sapere se vi giudicate all'altezza del compito e se siete pronti ad unirvi a questi gruppi di volenterosi cittadini per dare il vostro contributo alla causa. Chiamate ora in diretta all'800240024 e segnalateci chi mette a repentaglio la nostra salute. Raccontateci in 30 secondi e in modo dettagliato di quale episodio di disprezzo delle norme anticontagio siete stati testimoni. 800240024, stiamo parlando dell'USAC, delle unità speciali anticontagio che si stanno spontaneamente formando in Italia, delusi del fatto che non si parla più dei 60.000 assistenti civici volontari. Sarebbe stata una grande occasione per molte persone di rendersi utili per la salute e la sicurezza del paese. Daniela da Padova, buongiorno. Buongiorno a lei. È pronta per il suo racconto in 30 secondi. Vada. Io riferisco quanto mi è stato riferito, in quanto non sono andata in centro per motivi di malattia. In centro a Padova la settimana scorsa alcuni bar in pieno centro non rispettavano le distanze di sicurezza. Una esercente di un negozio lì vicino ha fatto presente ai vigili, i quali hanno risposto che non è un problema loro. Io chiedo, di chi è il problema? Grazie, arrivederci. È stata veloce, sintetica, concisa, sintomo e testimonianza dell'austerità e del non desiderio di mettersi in mostra che anima nel cuore ogni aspirante USAC. Sentiamo Giulio da Udine, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Mi è pronto? Vada, 30 secondi per la sua delazione. Sì. Se a Padova si piange, a Udine non si ride. Dopo settimane che mancavo dal centro, ho fatto un giro, decine di bar hanno aperto tavolini all'esterno rubando posti di parcheggio. Io dico, da una mano si offre la mela del peccato e dall'altra si dovrebbe fare a meno dei corpi di controllo, ma ci vogliono le SS, non i corpi di controllo. Se chi dovrebbe prevenire offre la mela del peccato, Nicoletti, siamo solo un narca ci può salvare, credo, a questo punto, mi viene da dire. La saluto cordialmente. Sì, ma perché te fretta di andare? Vorrei saperne di più. Lei, Giulio, ha usato termini drastici. Le dirò una cosa di più, che il sindaco è persona d'ordine della Lega, per cui io ho i capelli dritti sulla testa. Ma certamente, dovrebbe essere una persona d'ordine, così si è presentato durante la campagna elettorale. Adesso in centro scusa, non Giulio, si parcheggia scusi più. Giulio, ma perché voi diciamo aspiranti USAC di Udine... Sì. Non vi riunite in qualche maniera, create una sezione USAC di Udine, andate dal sindaco, diciamo siamo a tua disposizione, da oggi saremo i tuoi occhi, da oggi saremo le tue orecchie, da oggi non ci sarà più nessuno che sfuggirà al tuo controllo, vedrete che apprezzerà senz'altro. Giancarlo da Mantova, è pronto? Sì, sono pronto. A lei ha una delazione molto delicata da fare, vada. Allora, premesso che sono... Non sono d'accordo su questi controllori e secondo me anche questa movida, insomma, si sta facendo troppo clamore. Sono detto questo, sono andato a messa, ho partecipato alla messa, c'era il ministrante, si è scambiato la pace con gli occhi, è stato un bel momento, ho ringraziato tutti, però nel momento della comunione è successo che il prete si è lavato le mani col gel, si è messo i guanti, tutto bene, ma ha dato all'aiutante, gli ha dato la comunione, il quale ha preso quei guanti e si è fatto la comunione, quindi l'ha portata vicino alla bocca e poi ha distribuito. Questo, insomma, è un bel problema. Non mi spieghi il meccanismo, che è molto importante, perché si fa presto, tutti sono indignati quando ci hanno le chiese chiuse. Allora, il chierichetto l'ha presa in mano e se l'è messa in bocca. Diciamo, è un adulto. Che, vabbè, diciamo lo zelatore, il sacrestano, come si chiama? Il ministrante si chiama. Il ministrante, che è il signore che fa, diciamo, aiuta il prete. Aiuta, esatto. Sì, ha preso la comunione in mano. Riceve la comunione. In mano. Prende la comunione, poi riceve il contenitore delle ostie. E poi va a distribuirle, solo che se lui la fa prima, alza la mascherina, mette la mano col guanto Fiata sul calice di tutte le ostie, quindi... Mette la mano col guanto vicino alla bocca, ecco che il guanto non è più sterile, mentre il prete ha fatto le cose fatte bene. Ma questo non è un problema, cioè io l'ho segnalato al prete, ottima osservazione. Guardi, la novità degli USAC è che hanno proprio uno sguardo capillare su situazioni di trasgressione che nessuno avrebbe mai immaginato sul posto. Lei questa qua dello zelatore che fa la comunione, privilegiato, però alza la mascherina, entra in contatto con tutte le ostriche dagli altri, è un tema che va posto senz'altro alla CEI e quindi gliene saranno grato. Maria Clara da Padova. Pronta? Lei è una cosa veramente scabrosa da dire. Vada. Allora, è successo in pieno lockdown che nei supermercati, in alcuni supermercati, la gente si leccava il dito prima di prendere il sacchetto per scegliere il pane self-service. Questo uno. E poi nei banchetti degli ambulanti di frutta e verdura, la stessa cosa, si leccano il dito per prendere il sacchetto. Ecco, io trovo che questa cosa bisogna proprio stare tanto attenti. Ecco, vedi, Maria Clara, lei ha messo a punto, mi prendo parte dei 30 secondi perché è importante, siamo alla fine, ha messo il punto su un comportamento, ma che nemmeno tutti gli immunologi che per 3 mesi hanno parlato in televisione avevano osservato. Le persone che usano leccarsi le dita prima di aprire i sacchetti... Il fatto è che già da prima io avevo notato questa cosa negli anni, per cui ho sempre buttato via i sacchetti che venivano leccati dall'ambulante. Ma adesso diciamo, quella leccata di dito non è una semplice leccata, può fare un po' schifo, può portarti la morte. Quindi si leccano il dito per aprire il sacchetto. Ma certo, e dopo questo supermercato... Ma anche se c'è il guanto, c'è il guanto con sopra la mucchina, leccano comunque. Ma sì... Ma sì, cioè, ma quale può essere la soluzione? Infilare, diciamo, una sorta di profilattico sulla lingua, così almeno è isolata anche... No, nemmeno quello. No, sì, non funziona. Bravo, sì, appunto. No, comunque lei, diciamo, ricordatevi che leccarsi il dito innanzitutto è una cosa arcaica, oggi non c'è più bisogno leccarsi, i sacchetti sono fatti apposta per essere usati senza leccarsi le dita. Leccarsi il dito è molto sbagliato, è molto pericoloso, e la nostra aspirante USAC Maria Clara da Padova si è resa conto che lo fanno in tanti, è un comportamento pericoloso. I leccatori di sacchetti e leccatori di dita vanno comunque isolati e vanno ammoniti. Valeriano da Pescara, pronto? Pronto, buongiorno Nicoletti. Vai, vai Valeriano, svelto. Allora, senza dar fastidio a nessuno, senza avere un aspetto inquisitorio, regalare mascherine in giro. Vedere chi non ce l'ha e regalare mascherine. Molto più semplicemente, senza rompere le scatole a nessuno. Però scusi Valeriano, mi prendo il tempo che siamo in chiusura. Lei le regala, ma tutti quelli che gli USAC segnalano ce l'hanno la mascherina, che se la tengono abbassata, non basta regalarla, bisogna spiegare anche il comportamento. Potrebbe essere un gesto per sensibilizzare un po' tutti, vedono che le regali... Diciamo che magari... gli USAC potrebbero andare in giro anche con delle mascherine omaggio e dire guarda fratello, ti do la mascherina, tieni, mettila. Stop. Basta, vabbè, senza... vabbè, io penso sia un gruppo ispirato comunque ai principi della democrazia, quindi non è che sono dei vessatori, vogliono solo segnalare, denunciare, possono anche fare dei gesti di comprensione regalando mascherine. Stefano da Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Allora, vada. Naturalmente concordo con tutto quello che hanno detto i miei predecessori, voglio solamente dire che quando si va in giro, insomma, si vede che la metà delle persone non hanno la mascherina, non tengono assolutamente le distanze. E anche i commensali che sono seduti ai tavolini, per esempio in una pizzeria, c'è un commensale che è seduto da una parte e quello è seduto dall'altra parte, come era prima, non c'è nessuna differenza. Ma la cosa che io veramente non sopporto è una cosa che è già stata detta da un mio ascoltatore precedentemente, cioè che quando si va in supermercato la cassiera, seppure con i guanti, però tocca tranquillamente merce e soldi continuamente. Ieri ero in un supermercato, la mia attenzione è stata presa dai guanti di questa signorina. Diciamo, Stefano suggerisce una delle funzioni degli USAC, anche chiedere alle cassiere di cambiare guanti ogni cliente in fila al supermercato e non toccare soldi. Potrebbe anche essere questo, io non voglio entrare in merito, non ho detto che appoggio questo movimento, ho semplicemente riferito quello che circola nell'area. Nel paese comunque c'è una fetta importante di popolazione che non vedrebbe l'ora di scendere in piazza, osservare, riferire, fare dell'azione, fare comunque un rapporto quotidiano sui comportamenti sbagliati degli altri cittadini, e di questo bisogna tenere conto, e forse qualcuno ci aveva già pensato ma poi è stato costretto a far finta che nulla fosse. Ci sentiamo domani.